Saluti da Nino. Nuovo appuntamento con Giustizia e Ingiustizia, l'osservatorio sui processi di mafia, terrorismo e crimini politici. Un buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici da Antonella Beccaria e partiamo con quanto accadrà esattamente tra una settimana, mercoledì 21 marzo, giorno in cui Gilberto Cavallini, ex neofascista, comparirà davanti alla Corte d'Assise di Bologna per la strage alla stazione del 2 agosto 1980, quella che provocò 85 vittime e oltre 200 feriti, il più grave degli attentati che sono stati collocati nel periodo della strategia della tensione e dell'intera storia italiana del dopoguerra. È il massacro per il quale erano già stati condannati in via definitiva tre militanti di estrema destra, Francesca Mambro, Giuseppe Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini. A loro si sono aggiunti i depistatori, due alti ufficiali dei servizi segreti, il generale Pietro Musumeci e il colonnello Giuseppe Belmonte, il collaboratore del direttore del SISMI, Francesco Pazienza, e il capo della loggia P2, Licio Gelli. Il capitolo giudiziario che si apre tra pochi giorni si pone in continuità con questo quadro già definito dalle sentenze precedenti. Gilberto Cavallini, accusato di concorso in strage, oggi ha 65 anni, alle spalle un passato nei NAR, i nuclei armati rivoluzionari, e 8 ergastoli da scontare, compreso quello inflittogli per l'omicidio avvenuto a Roma il 23 giugno 1980 ai danni del sostituto procuratore Mario Amato. Era il magistrato che nella primavera di 38 anni fa aveva denunciato al Consiglio Superiore della Magistratura davanti al vicepresidente piduista Ugo Zilletti, una situazione che, partendo dai fervori neofascisti nelle carceri italiane, lasciava presagire una situazione pregolpista. Dalle novità sviscerate dalla Procura di Bologna c'è di più e dopo un'archiviazione che risale al 2013, Cavallini è tornato al centro delle indagini con la presentazione degli esposti depositati in Procura dall'Associazione dei Familiari delle Vittime. In particolare, l'ex terrorista detenuto oggi nel carcere di Terni è sospettato di aver fornito prima e dopo la strage a Mambro, Fioravanti e Ciavardini copertura nei covi di Villorba di Treviso. Il legale dell'imputato, l'avvocato Mattia Finarelli, a cui nel frattempo si sono aggiunti Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini, aveva già inviato una memoria e contestato le accuse rivolte al suo assistito, sottolineando la precedente archiviazione per lo stesso reato. Ma lo scorso 25 ottobre, davanti al GUP di Bologna, Alberto Ziroldi, le sue contestazioni non avevano sortito effetto. Maggiore attenzione, inoltre, è stata attribuita a un elemento portato dai legali che rappresentano le 90 vittime costituitisi parte civile. Si tratta di un biglietto su carta intestata di Carlo Maria Maggi, l'ordinovista veneto già condannato in via definitiva lo scorso giugno all'ergastolo per la strage di Piazza della Loggia avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974, che è inserito oggi nella lista dei testimoni delle parti civili, rappresentate dall'avvocato Andrea Speranzoni e dai colleghi Roberto Nasci e Giuseppe Giampaolo. Un biglietto in cui si parla di detonatori ed esplosivo T4 da consegnare a tale GC, nell'ipotesi delle parti civili Gilberto Cavallini. E il GUP di Bologna in autunno aveva ritenuto questo elemento plausibile, tanto che uno dei legali delle vittime ha parlato di un tassello di un'importanza fondamentale perché certificherebbe il legame tra Ordine Nuovo e INAR, legando la leva più giovane dei neri ai terroristi neofascisti della vecchia guardia che insanguinarono l'Italia tra il 1969 e il 1974, andando anche oltre. Tra gli altri nomi della lista testimoni compare il generale dei carabinieri Mario Mori, che nel 1980 indagò su INAR e che ora è in attesa di sentenza a Palermo nel processo per la cosiddetta trattativa Stato-Mafia. C'è anche Roberto Fiore, oggi ai vertici di Forza Nuova e negli anni 70 tra i fondatori dell'organizzazione neofascista Terza Posizione. Si aggiungono, oltre ai neri già citati e condannati, l'ex terrorista Walter Sordi e Sergio Picciafuoco alla stazione il giorno dello scoppio e che ai tempi diede una versione poco credibile della sua presenza. Anche per questo fu processato, finendo assolto definitivamente dopo un'iniziale condanna. In parallelo a questo filone processuale c'è però quello che prosegue per le indagini sui mandanti, nato di nuovo da esposti presentati dall'associazione vittime presieduta da Paolo Bolognesi. Familiari delle vittime sopravvissuti avevano presentato opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura, criticando la linea dei PM che ritenevano non provato il filo che in ipotesi legava manovalanza neofascista, apparati dello Stato in odor di P2 e oltranzisti atlantici annidati nelle basi militari presenti in Italia. Poi il 26 ottobre era giunta la sorpresa quando all'udienza si erano presentati il sostituto PG Nicola Proto e l'avvocato generale dello Stato Alberto Cambi. Perché? Perché la sorpresa sta che l'indagine era stata avvocata dalla Procura Generale, che ha a disposizione ancora un anno e mezzo circa per indagare sul livello decisionale quello che ordinò il massacro poi eseguito dalla destra eversiva e coperto dai servizi segreti legati a Licio Gelli. È un'ottima notizia, aveva commentato ai tempi il presidente Bolognese, Agnesi, che aveva aggiunto: andiamo avanti, ora c'è un quarto uomo, riferendosi appunto a Cavallini. Ma per le vittime non basta, occorre andare oltre, arrivare a chi ha ordinato l'attentato. E tra gli elementi sottolineati dall'associazione dei familiari ci sono anche le movimentazioni economiche riferibili alla P2, che tra il luglio e il settembre del 1980 destinò a vari beneficiari 15 milioni di dollari attraverso un conto che in codice si chiama conto Bologna. Quello che si apre tra pochi giorni quindi è un processo importante, continueremo a seguirlo per questa settimana. Intanto Giustizia e Ingiustizia si ferma qui. Grazie da Antonella Beccaria e il prossimo appuntamento è per mercoledì 21 marzo.